Adito sui tumori e la sua opinione è completamente... Allora, sono false le voci di morti di tumori. Ah, ecco, ce le siamo inventate. E le siete inventate. Parla più piano che la gola ti fa male. Ma questo riba quando cazzo imparerà a far un cammino nuovo? Mamma mia, fammi andare via di qua. Non porti rispetto per il cittadino, quando entri dentro non fai l'inchino, ti porti dietro quel lecchino che strappa il microfono come se fosse un meschino, ripreso dalle telecamere, ah, che cretino, con gli atteggiamenti da bambino, nascondi il microfono d'un inviato, ti hanno visto in TV e ancora non ti hanno rimpiazzato. Ma porco cane, ma arriva come fa? A prendere in giro tutti quanti in sta città. Eppur lui ci riesce. Ma che schifo questo uomo che mi fa. Sei più falso di una banconota da 3 euro e la tua vecchiaia equivale a quella di un dinosauro. È proprio vero che i coglioni non muoiono mai, e specialmente chi paga le notizie della Rai. Ti conviene andartene in pensione anziché pensare alla tua fallita espansione, e fai fare al tuo cervello una bella scansione. Ti diletti a fare i video da buffone, spari numeri e cavolate, organizzi oscene rimpatriate. Fai del tuo personaggio un leader, facendo credere di averla aperta tu, Little Feeder. Mentre i dati ISPRA sono già su un PDF reader. È stata richiesta per una settimana la chiusura delle coccherie, per sapere quali sono le loro porcherie. Il sindaco Ezio Stefano non ha accettato, per evitare un ambiguo risultato. Questo è l'esempio del primo cittadino, che di questa city dovrebbe essere un paladino. È una vergogna questa istituzione, che è per noi una grossa calcificazione. In questo momento te lo dico con le buone, vi voglio il tramonto color arancione. Ti hanno votato e ora per loro sei una grandissima, anzi grande, enorme delusione. Vergogna. E io per il 2010, contrariamente all'opinione di tutti, aumenterò la produzione della diossina, vero?